sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 6 settembre, il sole in regione sorto alle 6.35 e tramonterà alle 19.35. La luna è calante e bentornati all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Nuova stagione, diversa tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale per Vita nei Campi, che in apertura oggi ha le vendemmie, ottime per qualità, buone per quantità, ma con tanti problemi legati alla crisi che attanaglia anche il settore vitivinicolo. A seguire i nuovi dati e le nuove prospettive dell'agricoltura biologica in regione, sempre alle prese anche con i suoi detrattori. Per la rubrica del vino si entra nello specifico, iniziando con la definizione internazionale di questa bevanda. Ritorna poi la rubrica dell'orticoltura con le semine e i trapianti per il mese di settembre. New entry poi con la rassegna dei prodotti tipici, anzi tipicissimi del Friuli Venezia Giulia. Oggi è la volta del figo moro e in conclusione una dotta dissertazione sulla Macedonia per l'angolo della gastronomia. In chiusura di puntata l'andamento dei mercati, le previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Già da qualche giorno, parlando di vendemmie, quella di quest'anno viene definita ottima, se non addirittura eccellente. Vita nei Campi oggi vuole andare anche negli altri argomenti di questa vendemmia e lo facciamo con Michele Pavan, viticoltore e presidente regionale di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Rispetto allo scorso anno, sicuramente quest'anno avremo una produzione che si attesterà in diminuzione del 5-10%. Ci tengo comunque a evidenziare che la vendemmia, la raccolta di quest'anno sicuramente presenta delle qualità delle uve molto, molto buone, se non addirittura eccezionali. Una riduzione di quantità quest'anno che non viene proprio del tutto a nuocere, visto i problemini di giacenze. Questo è un aiuto, sicuramente potremo ripartire con una qualità di prodotto sicuramente eccezionale e quindi un auspicio positivo. La vendemmia ha bisogno anche dei vendemmiatori e soprattutto per Coldiretti c'è il tema dei voucher, un tema non ancora risolto. Quest'anno, vista la particolarità della stagione, auspicavamo che si potesse reintrodurre in maniera, diciamo, semplificata nella sua veste originale il voucher, che sicuramente è uno strumento molto utile, molto importante. Ciò non è avvenuto. Chiaramente in Friuli Venezia Giulia si vuole lavorare in sicurezza, soprattutto con la tutela dei lavoratori, dei vendemmiatori, e quindi si procede con l'assunzione da parte delle aziende dei vendemmiatori, con tutto chiaramente il carico burocratico che ci sta alle spalle. Mercato, come sta andando? Il mercato, dopo il periodo del lockdown che ha visto penalizzato soprattutto le aziende che si confrontano, che hanno il mercato di riferimento del canale Horeca, quindi delle trattorie, dei ristoranti, dei bar e degli hotel, che ha visto questo rallentamento qui, sicuramente in questo momento ci sono dei segnali di ripresa, dei segnali positivi. Anche il mercato dell'export sta, diciamo, dando un aiuto importante. Non siamo chiaramente ai livelli di pre-lockdown, però chiaramente questo ci fa ben sperare. C'è la grande incognita del mercato anglosassone americano. Sicuramente bisogna tenere in considerazione due problemi che erano già emersi, c'erano già prima della chiusura, che riguardano i dazi negli Stati Uniti e la Brexit nel Regno Unito. Auspichiamo che insomma queste due situazioni qua si risolvano al meglio e quindi possano essere, visto che sono due mercati molto importanti per la viticoltura regionale, chiaramente auspichiamo che si possa risolvere al meglio. Che bio ci aspetta? È la domanda e Cristina Micheloni oggi ci darà le risposte riprendendo la sua rubrica dedicata al biologico. La stagione in realtà inizia con uno slancio, un bioslancio di particolari dimensioni, sia per il bio italiano che quello europeo, ma anche nel nostro piccolo, quello friulano. Infatti, dopo la pausa estiva, sono riprese a livello politico le attività per quanto riguarda il Farm to Fork, che, come abbiamo già detto nella scorsa edizione, contiene alcune misure molto importanti per il biologico. Ne dico una, quella un po' più evidente, che è il fatto di arrivare entro il 2030 al 25% di superficie di SAU, di superficie agricola utilizzabile, in biologico all'interno dell'Unione Europea. A livello italiano questo traguardo è già stato preso in considerazione, però non ancora abbastanza a livello ministeriale, e molto poco a livello di regioni, che dovranno predisporre dei piani d'azione. Noi a livello regionale, nel nostro piccolo, siamo cresciuti. I dati ancora non ufficiali ci dicono che siamo arrivati a 1200 operatori, che è un bel balzo, perché se vi ricordate fino al 2008, 2009, anche 2011 si navigava sui 300 operatori certificati, quindi a 300 a 1200 è assolutamente un salto importante. Siamo ancora lontani però dal 25%, più o meno, sempre dati non ufficiali, e ci attestiamo sul 5% di SAU biologica a livello regionale, che non è poco, però c'è ancora tanta strada da fare. E questo per quanto riguarda il livello politico. Per quanto riguarda il livello agronomico, ci sono state in questa annata diverse colture nuove che hanno visto le prove in campo anche nella nostra regione. Abbiamo fatto la camelina, abbiamo provato anche la canapa, stiamo provando anche specie diverse di cereali, non solo quelli antichi o cosiddetti antichi, non solo i miscugli di cui abbiamo parlato tanti anni fa, se vi ricordate, ma che continuano a evolversi. Abbiamo parlato di selezione evolutiva e hanno continuato ad evolversi e continuiamo a farlo, con dei risultati molto interessanti sia sulla produttività, che sull'adattabilità ai territori, che sulla qualità della farina che se ne ottiene. Nei campi abbiamo le malerbe, nel bio troppo spesso le male lingue che non si tacciono. A che punto siamo? Sulle malerbe o sulle male lingue? A livello di male lingue, vabbè, insomma, non ci curiamo di loro, ma guardiamo e passiamo in qualche maniera. Nel senso che proprio questa attività del farm to fork ha creato molto malcontento, perché dare questo ruolo importante al biologico ha in qualche maniera scombinato gli equilibri di quelli che hanno sempre considerato il biologico una nicchia di poco interesse. Tant'è che per esempio si stanno agitando per creare dei percorsi diversi che parlano di sostenibilità nell'agroalimentare, creandosi, inventandosi anche delle diciture, dei nomi, delle etichette. Per fortuna nel 2023 al più tardi l'Unione Europea, speriamo anche nel 2022, uscirà con una legge quadro, con un regolamento che definisce che cos'è la sostenibilità nel settore agroambientale, e quindi non ci si potrà più inventare nomi, nomignoli e diciture che dietro hanno veramente poco se non niente. La scorsa stagione di Vita nei Campi, il professor Roberto Zironi, che all'Università di Udine insegna enologia, ci aveva portati alla nascita del vino e alla sua storia fino all'avvento dell'era moderna. Con la puntata di oggi inizia ad occuparsi direttamente del prodotto con la definizione ufficiale di vino. Secondo la risoluzione dell'OIV, il vino è esclusivamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, pigiato o meno, o del mosto d'uva, il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 8,5 gradi. Esistono poi delle particolari deroghe per delle produzioni tradizionali di alcuni paesi del mondo. L'OIV è un organismo governativo transnazionale con competenze di tipo scientifico e tecnico, che ha la funzione di istruire, diciamo, delle pratiche di miglioramento delle produzioni che serviranno poi come base per le legislazioni dei paesi che aderiscono a questa organizzazione, che raggruppa tutti i paesi che hanno interessi economici nella vite e nel vino. Nei paesi di cultura anglosassone c'era una cultura, diciamo, antica, che faceva riferimento al termine wine per tutte le bevande fermentate ottenute dai frutti. Anche attraverso, diciamo, la partecipazione a questi organismi internazionali, questi paesi hanno poi definito, come da alcuni decenni, con il termine wine si identifichi esclusivamente il prodotto come Unione Europea ottenuto dalla fermentazione dell'uva. Nell'Unione Europea poi in particolare si è ristretto ulteriormente il campo, diciamo, di attività della produzione enologica, definendo molto bene come il vino si possa ottenere soltanto dalla fermentazione di frutti della vitis vinifera. Questo perché le vitis diverse o gli ibridi tra vitis vinifera e vitis diverse danno dei vini con delle caratteristiche organolettiche particolari, non identificabili con i vini del vecchio continente, e che noi conosciamo molto bene essere quelle del tipico fragolino o noax. Da questo punto di vista, delle recenti attività di tipo scientifico condotte anche dall'Università di Udine e tutta l'attività vivaistica piuttosto fiorente in questa regione ha portato alla proposta di nuovi incroci tra vitis vinifera e vitis diverse con la intenzione di aumentare notevolmente la resistenza nei confronti dei patogeni e quindi diciamo di arrivare ad una viticoltura maggiormente sostenibile, quindi da alcuni anni sono autorizzate alla coltivazione anche questi nuovi individui, queste nuove selezioni, e già sono presenti sul mercato da alcuni anni dei vini ottenuti proprio da questo tipo di produzione. Ritorna oggi a Vita nei Campi la rubrica dell'orticoltura, una rubrica che in molti ci chiedete. Ritorna con Sara Bosco, una laureanda all'Università di Udine, ovviamente in materie orticole, con azienda familiare nel settore, che già oggi ci parla delle semine e dei trapianti in orto per il mese di settembre. C'è un clima mite, non ci sono temperature troppo elevate, perciò è ideale per semine e trapianti di moltissime orticole. Si tende ad avere però un aumento dell'umidità. Per questo motivo è di fondamentale importanza che tutte le irrigazioni che andiamo a fare vengano eseguite solo se necessarie e preferibilmente durante le ore più calde, cercando di evitare un contatto diretto con le foglie, altrimenti si potrebbero sviluppare dei marciumi precoci. Questo mese risulta quindi ideale per la semina sia in piena aria, ma anche in serra fredda o piccoli tunnel di lattughe, cicorie, radicchi, rucola e bieta. In base un po' alla lunghezza in giorni del loro ciclo di sviluppo, potremmo andarli dopo a raccogliere prima, durante o addirittura dopo l'inverno, ovvero nella primavera successiva, quando ormai le temperature tendono a rialzarsi. Dopo questo mese, purtroppo, le semine in piena aria si riducono a causa un po' delle temperature che diminuiscono sempre più. Una buona pratica, però, risulta che essere dopo la semina di predisporre sulla superficie del terreno un tessuto non tessuto nelle ore più fredde affinché si abbia una germinazione un po' più uniforme e una crescita delle piantine nei primi centimetri più sicura e più robusta. I trapianti invece riguardano per lo più i cavoli, cavolfiori, broccoli, finocchi e le verze, tutte piantine ottenute comunque da semine effettuate durante l'estate in semenzaio. Per chi però non ha la possibilità di avere un orto, ci si può dedicare alla messa a dimora anche di queste piante sul balcone, in vasi. Una pianta che risulta essere molto richiesta è il prezzemolo, infatti questo può essere seminato in vaso, però è molto importante che questo possa avere una buona esposizione solare affinché possa crescere in maniera sana. Tra le orticole che invece resistono bene al freddo invernale è da ricordare anche la cipolla. Questa a settembre può essere seminata in semenzario, partendo dalle varietà più precoci che appartengono principalmente alla varietà bianca, per poi proseguire nel mese successivo andando a seminare le altre varietà. Oltre a queste orticole si possono anche seminare dei bulbi di alcuni fiori, come ad esempio le primule, i narcisi, tulipani, garofani, che possono essere posti in vaso sui terrazzi. Questi, con le giuste ovviamente pratiche di gestione, permettono la loro fioritura nei primi mesi dell'anno, permettendo di colorare e profumare i nostri balconi. Abbandonato l'universo suino della passata stagione, Adriano Del Fabbro inizia una serie di contributi sui prodotti tipici, anzi tipicissimi del Friuli Venezia Giulia, quelli più o meno presidio Slow Food oppure nell'elenco del Ministero. Oggi inizia con il figo moro. La coltivazione del fico nero, localmente appunto figo moro, è diffusa ai piedi dell'altopiano del Piancavallo a Caneva in maniera particolare da tempi remoti. Il particolare microclima dell'area, collocata a ridosso tra le prealpi e la pianura veneto-friulana, la diversità dei sali minerali del sottosuolo, tra cui tanto calcare, potassio e magnesio, oltre alla collocazione delle piante in declivi decisi, conferiscono ai frutti della zona irripetibili caratteristiche organolettiche tali da renderlo famoso e ricercato. Il suo pregio è storicamente riconosciuto, tanto da aver costituito un'importante disponibilità alimentare per le sue doti energetiche e medicali, soprattutto in tempi difficili o di autentica carestia. È documentato che nel 300 i commercianti registravano consistenti partite di prodotto in partenza da Caneva verso i mercati della pianura. Nella stessa Venezia il figo moro godeva di una valutazione mercantile superiore alla media ed era apprezzato perché aveva frutti più grossi, dolci, saporiti e con due generosi raccolti all'anno, a luglio e a settembre. Dunque, in questo angolo di Friuli, con una forte impronta veneta, cresce una varietà di fico che è il risultato di una selezione spontanea. Una pianta che, nelle terre di Caneva, già dal terzo anno inizia a produrre e continua a farlo per più di 100 anni, con una media di un quintale circa di frutti a stagione. I sicconi rimangono verdi per tutto il tempo dello sviluppo e poi in soli 3 giorni virano al marrone e infine al nero. Particolari, tipiche e uniche le rotture che su di essi si verificano e si autosanano per l'elevato tenore zuccherino posseduto. Nel comprensorio ne sono state censite oltre 900, ma si ritiene che il numero più giusto superi le 1000 unità per una produzione di circa 800 quintali di fichi l'anno. Su queste premesse una 50ina di produttori ha dato vita a un consorzio di tutela per sovrintendere, salvaguardare e promuovere la produzione. Un primo risultato è stato ottenuto nel 2007 con l'inserimento del figo moro nell'elenco del giornale dei prodotti agroalimentari tradizionali. La rapidissima maturazione rappresenta il bello e il brutto di questa pianta. Infatti il frutticoltore deve essere pronto per la raccolta e, in quei giorni, le condizioni climatiche devono risultare adatte affinché le caratteristiche del prodotto possano essere valorizzate. Vista la sua crescita spontanea, il figo moro può, e direi deve, essere gustato con la buccia. Sapevate che una macinata di pepe e del basilico tagliuzzato finemente ben si addicono anche a una macedonia di frutta? Questo è tanto altro nel contributo di oggi di Roberto Zottar. La macedonia per molti anni è quasi scomparsa dai menù dei ristoranti e a chi la chiedeva a fine pasto tutti proponevano in alternativa l'ananas. Poi si è fatta furba, si è travestita da insalata di frutta, fruit salad, come dicono gli inglesi, ed è ricomparsa riconquistando posizioni significative. L'insalata di frutta non ha però condimento, è formata solo da pezzi di frutta disposti elegantemente nel piatto, non di rado abbinati a gelato. I termini generano però confusione. Insalata è propriamente tutto ciò che si condisce, in quanto costituito da in e sale. Il termine Macedonia appare nel 1815 nella Cuciniera piemontese, adattamento del testo francese Le Cuisinier Gascon del 1740, in cui ci si riferiva però ad un piatto di verdure e legumi al burro. Secondo il dizionario etimologico della lingua italiana, Macedonia è attestato in italiano appena dal 1918 con il valore di mescolanza di frutta varia tagliata a pezzi con aggiunta di liquore, succo di limone e zucchero ed è un adattamento dal francese Macédoine utilizzato come scherzosa allusione, si dice, alla eterogeneità dei popoli della Macedonia balcanica. Per fare una buona Macedonia bisogna però rispettare alcune regole. La frutta fresca, ma anche cotta o secca, deve essere tagliata in piccoli pezzi. Gli agrumi si devono pelare a vivo e gli acini d'uva si tagliano a metà. La frutta deve essere matura ma ben soda. Si può integrare con frutta sciroppata, ma non con quella surgelata perché questa è priva della consistenza necessaria. La preparazione va fatta con leggero anticipo e poi conservata in frigo, ma non per molto, perché altrimenti la frutta si macera troppo e perde in consistenza e colore. Invece di condire con limone, zucchero e il classico maraschino, il pasticcere Luca Montersino fa macerare la frutta tagliata in uno sciroppo che è realizzato con 1/2 litro d'acqua, 1,5 di zucchero, fatti bollire per 2 minuti, in cui ci sono messi in infusione purea di mango, stecche di cannella, anice stellato, pepe verde e foglie di menta. La combinazione dei frutti impiegati dipende dai gusti personali. La raccomandazione è comunque quella di utilizzare sempre prodotti di stagione. Per dare freschezza alla vostra macedonia, oltre ad un ciuffo di menta nel servirla, ho 3 segreti presi da uno chef francese che ho spiato mentre la preparava. Aggiungete sempre una grattugiata molto fine di buccia di limone, poi una manciata di pepe profumata, sì, proprio pepe, e tagliuzzate finemente alcune foglie di basilico. Non ci crederete, ma il basilico è perfetto anche in un dolce. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, avvenute ancora attraverso videoconferenze. Il mais comunità 14% è stato quotato tra 17 e 17,20 euro al quintale IVA esclusa, l'orzo, con peso specifico 60-63, tra 14,30 e 14,80, il frumento tra 17,40 e 17,70. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 90 centesimi, il quintale e il frumento di 30. Passando ai bovini da macello, nessuna novità di rilievo nelle quotazioni. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,20 e 2,60 euro al chilo IVA esclusa e quelle di seconda tra 1,40 e 2,20. Anche il mercato dei vitelli da ristallo conferma le quotazioni dell'ultimo andamento, con i blu belga maschi quotati tra 5,70 e 6,10 euro al chilo IVA compresa, i pezzati e rossi tra 4,50 e 5 euro, i frisoni tra 1,50 e 1,80 e i bruni tra 1,30 e 1,60. Spunti di ripresa invece nel comparto suinicolo, con il valore della tonzola di 30 kg franco partenza fissato a 2,30 euro al chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 1,44 al chilo. Per quanto riguarda il prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, la commissione della Camera di Commercio di Pordenone e Udine lo ha quotato franco stalla a 36 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano prezzi in ripresa rilevati dalle quotazioni dell'Alta Italia, dove i polli a terra vengono pagati tra 1,01 e 1,03 euro al chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,23 e 1,25. Le anatre tra 2,25 e 2,29, le faraone tra 2,05 e 2,15, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 1,75 e 1,81, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 16,60 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA, Livio Stefanuto, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Nel mese di agosto, a parte i primi giorni, la temperatura in pianura è rimasta quasi costantemente sopra la media climatica. A Udine è stata pari a 24 gradi, un grado sopra la media degli ultimi 30 anni, ma leggermente inferiore a quella degli ultimi 3. La temperatura massima ha superato i 30 gradi per ben 20 giorni contro una media di 14. Sulla costa la temperatura è stata di pochissimo sopra la media, un valore di 25 gradi e mezzo. Questo nonostante che il soleggiamento sia stato leggermente inferiore alla media. Le precipitazioni sono state superiori alla media sulla costa, sulla pianura udinese con 160 mm e goriziana 150 mm. In media invece nella pianura pordenonese 130 mm. Di molto sopra la media in montagna, con quasi 300 mm a Fone di Sopra, quasi 600 a Tolmezzo e 350 a Tarvisio. La gran parte di queste ultime piogge si sono registrate negli ultimi 3 giorni del mese. Il vasto anticiclone con aria mite in quota presente sull'Europa si sta ritirando temporaneamente per il sopraggiungere di una saccatura atlantica con correnti sud-occidentali più umide ed instabili. Oggi la regione sarà marginalmente interessata dal passaggio di un fronte sulle Alpi. Lunedì sul Golfo del Leone si formerà una depressione che richiamerà correnti nord-orientali nei bassi strati. Domani in pianura e sui monti avremo cielo in prevalenza nuvoloso al mattino, con piogge in genere moderate. Sulla costa cielo variabile. Sarà possibile qualche temporale, con piogge localmente più intense, specie sulla fascia occidentale. Sulla pianura e sulla costa soffierà bura moderata. Dal pomeriggio le piogge tenderanno a cessare e si avranno ampie schiarite. Le temperature massime non supereranno i 25-26 gradi. Da martedì la depressione tenderà ad abbassarsi verso le Baleari e sul suo margine settentrionale verrà aggirata dall'anticiclone atlantico, che tornerà a spingersi verso la Francia, la Germania ed il centro Europa. Il tempo dunque tornerà ad essere stabile anche in regione, con aria mite in quota. Il cielo da martedì a venerdì rimarrà pressoché sereno e le temperature massime torneranno ad essere estive, con valori in pianura attorno ai 30 gradi. Significativa anche l'escursione termica tra il giorno e la notte, che sarà di circa 13-15 gradi. Martedì soffrirà ancora bora moderata, poi avremo venti di brezza. Tra sabato e domenica il passaggio di una veloce saccatura porterà un fronte atlantico sulle Alpi e potranno tornare le piogge e i temporali, accompagnati da vento di scirocco sulla costa. Ma dato l'ampio anticipo della previsione, si consiglia come sempre di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario.